storie denoaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera. Buonasera a tutti voi sintonizzati su Blu Radio Veneto da parte di Gesi e di Antonio. Caro Antonio, siamo alla seconda trasmissione di Storie de Noaltri. Oh, scusa, ma io sai il dialetto tante volte. Sono... L'importante è lo spirito, naturalmente. Sì, appunto. Allora, Antonio, vuoi comunicare tutte le nostre coordinate? Certamente, noi ringraziamo le amiche e gli amici su bluradioveneto.it, l'indirizzo di posta elettronica. L'indirizzo web è www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per i vostri SMS, per suggerimenti, proposte e quant'altro è il 346 23 20 033. Esiste naturalmente anche la possibilità di effettuare il download del podcast della trasmissione per i nostri amici più tecnologici. E di che cosa parliamo stasera, Antonio? Questa sera parliamo di Venezia, la Serenissima Repubblica, le sue tradizioni, esattamente. Allora, prima di far ascoltare la canzone, che è una canzone tipicamente veneziana ed è cantata da Umberto da Preda, è Il Gondolier. Di nuovo in studio e presentiamo la prima ospite della serata, che è la poetessa veneziana Franca Turchetto. Pronto? Pronto. Ah, buonasera Franca. Buonasera Gesi. Buonasera Franca. Antonio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene Franca. Intanto vi ringrazio dell'invito che ho avuto a partecipare alla vostra carissima trasmissione. Spero Bella, tanto vada, sappiamo, andiamo sul sicuro. Bene. Comunque grazie a te di aver accettato e di averci dato la tua disponibilità. Sì, allora, di che cosa ci parli stasera? Dunque, vada mi stasera voglio parlare, siccome che domani è la festività della Madonna del Rosario, volevo spiegare un pochettino come che è nata sta festa, perché maggior parte so che c'è in giro più paesi, sagre, fiere, mostre, eccetera, eccetera, ma non so se tutti, o perlomeno chi che non vi interessa, sappia l'origine di questa festa, che è inerente poi anche a un episodio storico di Venezia. Bene, allora ecco, lo ascoltiamo da te. Però volevo, dato che appunto l'argomento è su Venezia, volevo a farvi sapere che Venezia non è nata né Geri e neanche Geri altro. Venezia, data storica, è nata il 25 marzo del 421, il giorno dell'Annunciazione di Maria. Perciò è una vergine fanciulla anche Venezia, nata sotto la protezione a Madonna. Però c'è un discorso, e qua adesso cominciamo, vi spiego appena sta benedetta Venezia, che quasi nata non aveva la forma che ha adesso, logicamente aveva ben altre cose. E Veso all'inizio è un editto che si sta messo sul Palazzo Ducale come monito a chi che non poteva interessarsi più di tanto. Peccato che sia staccava via e che lo abbia messo al Museo Corer, perché anni su Nioese. Allora sto editto, che è del 1400, mi dice così: la città dei Veneti, fondata per la disposizione della Divina Provvidenza in mezzo alle acque, è da queste difesa, invece che da un muro, perciò chiunque in qualunque modo recherà danno alle acque pubbliche sarà giudicato nemico della patria e non riceverà pena minore di chi avrà violato le sacre mura della patria. La legge stabilita con questo editto deve durare in eterno. Questa l'ha scritta un umanista del 1473. Pensa un po'. E questa è una... Dopo, tornando pian pianissimo un pochettino a sta Venezia, diremo che... Scusa Franca, volevi dire qualcosa Antonio? Sì, mi pare che queste erano delle gran belle intenzioni, purtroppo disattese dai posteri, se non... Ma tanto disattese, perché Serenissima Repubblica già era tremenda, però sapeva governare. Esattamente. Anche se già era cattivetta, insomma, certe volte. Allora, adesso andiamo un attimino ai prime baracchette dei gnu. Dunque, da questo gavudo vita Venezia, che nasce dall'acqua, sull'acqua. Per via di tutto questo è successo per via di invasioni barbariche, perciò i profughi scampai da terraferma, i gassai su ricche case romane, perché ci viveva Padova, Oderso, Concordia, e tutti scampai verso qua, e qua disperai i ga trovare a sistemarsi. I ga fatto una vita abbastanza grama, dei sacrifici, nel domar l'acqua della laguna, non del mare, della laguna, perché questo maree, e in più che c'era il pericolo, quando i fiumi in piena, perché ne aveva sette che si scaricava nell'Adriatico fiumi, perciò nel soccorso, diremmo, di bufere, di alluvione, di robe, gli portava su tanti detriti, tronchi di albero, sassi, piere, chi più che ne metta, e ha cominciato a formarsi dei piccole velmette, dei piccole barenette che c'era già, però essere anche un fiantino rinforzati, tocchettini di terra che emergeva e dopo si scondeva e veniva su e veniva giù. Pensiamo a sta povera gente in che condizioni di sperare che i viveva, però ni si era perso de animo, coraggiosi si è tirato su le mani che gli ha scominciato a lavorare costruendo le sue prime casette di legno, cioè tutto il legno che io ritrovava già era buono per fare su proprio capanette come i osetti sul nido. Come i castori praticamente nei fiumi. Sì, però queste casette qua io al principio già erano messe su questi piccoli dossi, però dopo, visto che i trovava il pericolo dell'acqua sia della laguna, quei maree, sia del coso, i ha cominciato a impiantare pai, cioè pai. Siccome che c'era Bareni, insomma, lungo la costa, diremmo, del litorale, ora io ho questa fiacchetta, non so come chi faceva, i snitossi, questi bei tronchi di legno e comincia a imbonire sta melma, sto fango, sta... Hanno fatto un'opera di bonifica. Hanno fatto un'opera di bonifica e ha cominciato appunto così, impiantando pai di legno nel sto fango. Dopo ori aveva fatto dei piccoli recinti, cioè aveva fatto una piccola paesificata, no? Dopo, a una certa distanza, adesso dico una roba a caso, mezzo metro, un metro, e ho buttato dentro di tutto, scorsi di cape, sassi, perché andava anche sulle distrutte città di Aquileia e Altino. Perciò io avevo anche la possibilità con che barchette che aveva, che pareva scorsi di banana, non so che c'era, e peati di adesso. E rancurando tutta sta roba, io ho avuto modo di imbonire. E oggi si è fatto come di recinti, che secca l'acqua, e dove chi imboniva si faceva queste casettine. Queste casettine, poveretti, cercavano anche di stare vicini, perché tra scuro che c'era, tra che non c'era luce, non c'era niente da mangiare, non c'era niente da bere, e si contentava di stare a vivere in tempo. Ma sai, Franca, la gente una volta era molto più lavoratrice di oggi. Sì, ma poi ti parliamo del 4-5-6. Certo, si arrangiavano, arrangiavano con quello che potevano. E oggi praticamente iga in bonio, iga in paludasto terreno slimaccioso, e queste casette col tempo si cresciue sempre, tenia su con questo materiale di recupero. Era da rapiere, sassi, scorsi di cappe, mattonelle, tutto insomma, di tutto. Ecco Franca, scusa un attimo, adesso ci fermiamo un momentino per una canzone. Tu resti in linea e tu ti ascolti la tua brava canzoncina, grazie. E poi ci risentiamo, eh? Sì. Benissimo. Vabbè. Allora, la seconda canzone in programma è Mi manchi, cantata da Fausto Leali. Manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mio. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù, far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro la delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Eccoci di nuovo in studio con Franca, che lasciamo quel suo racconto così fantasioso, così coinvolgente. Grazie. Ecco Franca. Allora, adesso termino, io di praticamente quando chi si faceva sti piccoli recinti, chi si cava tocchi spezzetti di acqua, io cominciava da casetta a casetta, perché poi si che in grumai, si che ha fatto amicizia e viveva in compagnia, io cominciava a fare i primi pontesei di legno e era proprio toete di legno. Eh sì, beh. Ecco, in più una roba importante, che come che sei nata a Venezia da sta storia qua, è roba bella che vediamo adesso, che si è formata come che si è formata, non ha avuto nessun piano edilizio. È nata tocchetto. Spontaneamente. Tocchetto, spontaneamente, perché dopo, quando che si è cominciato a ingrandire il fatto della laguna, e origa comincia a portarsi verso il rivo alto, cioè si andai più verso dove chi era più sicuri, e ha nato il centro commerciale del Rialto. In antico si chiamava Rivo Alto. Rivo Alto, eh, ecco, sì. E da Dea si è tutto ingrumato, tutto è la zona più importante di Venezia, perché se voi altri osservate, è nato la forma di un pesce. Sì. Ecco, logicamente da parte della Coa, che finisce, diremo, Venezia, è anche dove che c'era proprio le bocche del mar che veniva giù, e insomma era più pericoloso, perché Venezia si è posata su un zattarone legno in laguna. Ho capito. E la laguna purtroppo pochi la conosce. Ma come mai non la conoscono in pochi? Perché non è mai stata... No, la conosce poco, perché intanto la distrugge. Intanto che c'è il motondoso, intanto noi sa, cioè chi che governa adesso, chi che governa prima, chi che non vi interessa niente, noi sa che a Laguna ha un procedimento diverso, e così diremo è spassin, cioè è Laguna, praticamente il mare quando che entra è quello che fa poesia tutta Venezia. Se a Laguna non si mantenua, che è in selvagisse, che per esempio con roba che intralcia, è Laguna mor. Nagare sul giro di corrente, sì, tanto ne manca l'ossigeno. Che manca l'ossigeno. Sì. Tanto è vero che dopo che è nata a Venezia, quando che era già che ha perso forma che ha adesso, che c'era dei ri minori che non che c'era giro di acqua. E qui ha appunto giustamente dei savi veneziani, dei magistrati delle acque, da esperti, da ingegneri dell'idraulica, i gasserai, perché non si arriva niente, gli faceva come diremo. L'acqua non aveva giro. Comunque ci sarebbe tanto da parlare di Venezia. Purtroppo il tempo è quello che è. No, ma non c'è un argomento tanto facile, perché mie e 400 anni di storia, sono tanti, sì. Tanti, sì. Vabbè, ma adesso noi parliamo brevemente della Madonna del Rosario. Sì, andiamo alla Madonna del Rosario. Dunque, questo mese qua, Ghesè, ricorrenza, diremo, la festività della Madonna del Rosario, che ha un fatto inerente a un fatto storico che è successo a Venezia nel 1571. Praticamente è inerente proprio a storia del Rosario come corona del Rosario. Adesso spiego in poche parole e spero di potermi spiegare bene. Dunque, l'invenzione di questo Rosario come oggetto de culto e de preghiera si è da attribuirlo a San Domenico, che ha fatto un sogno e si è insognato a Madonna, e a Madonna è che si è apparsa consegnandogli una corona di grani, ecco, qui è lo che ha scongiurato di pregare per l'eresia e per chi che non credeva insomma al cristianesimo. E la Vergine stessa, dice la leggenda, che ha detto a San Domenico: a tutti quei che con devozione reciterà il mio rosario, prometto la mia protezione e grandissime grazie. E la potenza di questo oggetto, cioè il rosario, deriva da un'usanza medioevale di decorare con una corona di rose tutte le statue della Madonna. Tradizione un po' che ispira l'immagine della coana dei grani, e qui ha dell'abitudine di contarli. E preghiere, però gli veniva chiamato in antico Pater Nostri. Tutti i Pater Nostri, perché e Ave Maria non era ancora, diremo, di moda. L'Ave Maria. La preghiera, l'Ave Maria è nata dopo. Interessante però. Sì, ti vedi, ora nel frattempo è il mercato di rosari che ha cominciato a partire, e a Venezia, dopo l'evento storico della città, che ha fatto parte primaria insieme a Lega Santa, in occasione della vittoria della battaglia di Lepanto, dove forze del cristianesimo ha sconfitto i turchi, e a causa principale di questa vittoria è stato proprio l'intervento miracoloso attribuito alla potenza del rosario, che in quel momento è apparsa, cioè chi è il visionario che l'ha vista, che si è apparsa questa Madonna con il rosario in mano, che ha protetto il cristianesimo contro il turco infedele. Maria Venezia, avete delle... Sì. Allora, sto fatto di questa vittoria della battaglia del Lempito è già stata vista da Papa Quinto, Pio Quinto. Anche a Iuga ha avuto una visione, ha visto questa vittoria dei veneziani, cioè contro la Lega Santa contro i turchi, e anche a Iuga, insomma, ha visto questa Madonna con questo rosario in mano. A Venezia, chiesa in accesa, intitolata a Madonna del Rosario. Ho capito, proprio intitolata. Sì. E ha un altar dedicato proprio per Ea, e mi ricordo che quando c'era Putea, che c'era sta data, insomma il 7 ottobre, si andava a c'era delle processioni, questi infioramenti di questa Madonna, queste corone, queste rose, che più viene ga, più viene metta. Sì. E qua è messa solenne e tutto quanto. In più sta... Questo discorso di questa Madonna, Elghese, e le sue province, e i suoi paesi di campagna, perché c'è i farai a Sagra, i farai sagra agricola. Ah, sì, sì, è vero. Ecco, molto diffuso in effetti. Sì, è tanto diffusa fuori in terraferma. Sì. E mi me pare di aver trovato, o sapevo, che a Vicenza, che è una chiesa intitolata a Madonna della Corona. Addirittura. Da Corona, accesa, no, Santa Corona si è accesa. Ho capito. E Gesè un altare su questa chiesa intitolato a Madonna del Rosario. Di conseguenza. Queste due visioni sono San Domenico per una roba, e sto Papa che ha avuto la visione. Pensi te l'esultazione che ha avuto questa vittoria a Venezia con sto Papa, perché io già da quello che ha, diremmo, già stato l'artefice principale che ha fatto i negoziati con tutti gli altri stati per andare a fare la Lega Santa battaglia dell'Epanto. Storia e tradizione insieme, quindi sì, appunto, religione, tutto si intreccia. E tanto è vero che c'è dei gruppi di storici a Venezia, passionari, che con rappresentazioni inerenti appunto a questa famosa battaglia navale vinta dall'Epanto di Lega, perché ha avuto l'aiuto di stata fornita dai navi dell'arsenale di Venezia. Ecco Franca, scusa, ma sì, purtroppo il tempo sì, è tiranno. Sì. Noi abbiamo apprezzato moltissimo il tuo intervento e adesso ci ascolteremo una canzone e poi ci sarà un altro ospite. Va bene. Ecco, allora alla prossima. Ecco, allora vi ringrazio tutto, spero di essere stata, insomma, molto esauriente. Sì. Vi ringrazio. Molto, molto, una storia affascinante. Naturalmente. E ci sentiamo, grazie. Sì, ci sentiamo, grazie Franca. Buonasera. Grazie a tutti gli ascoltatori, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzone, beh, perlomeno a mio avviso è bella, ed è cantata da Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Sogni ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno. Io faccio solo rock and roll. Se ti conviene, bene, io più di tanto non posso fare. Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale. Mi hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, e anche allora devo il mio successo. Che sono pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. E che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però per quelli eccoci di nuovo in studio e presentiamo il secondo ospite della serata, che è il signor Moro di Murano. Pronto? Pronto? Signor Moro, sì. Buonasera. Buonasera. Signor Moro, sì. Angelo mi ha detto che si chiama, esatto. Vero? Sì. Grazie della disponibilità che ci ha dato. Qui c'è il co-conduttore Antonio. Buonasera Angelo. Buonasera. Ecco, e lei è di Murano. Sì. E ci parlerà un pochino della storia di Murano. Sì, sì. Benissimo, allora vuoi raccontarci un pochino qualcosa, magari parlando un po' forte, sì. E parlando non troppo in fretta, che è così, sennò altrimenti la gente non riesce a capire bene. Ecco. Ho capito, benissimo. Dunque, Murano ha origini antichissime, vero? Partiamo dall'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo secolo, perché era porto di Amurianus, cioè il porto di entrata tramite l'isola di Sant'Erasmo, il porto di Sant'Erasmo. E Murano era circondato anche da altre isole che si andavano popolando attorno a Venezia, e fu retto da tutto il secolo VII dai tribuni minori fino ai maggiori. Da chi, scusi? Dunque, dai tribuni, vero? Ah, dai tribuni, sì. Tribuni, fino al decimo secolo dei maggiori. Murano ha un suo stemma dell'isola, è un gallo in campo azzurro incornato di argento, coi piedi vernigli, portando sul dorso una volpicina d'oro e nel becco una serpe contorta. Perché questa serpe? Ma è misterioso questo significato. Forse è l'astuzia un po' del... Il gallo è forza, vero? È l'astuzia del muranese, vero? Prende questa vipera, questa serpe nel becco. Perché il carattere del muranese è un po' astuto. È un po', sì. E prima è stata scoperta questo tipo di effigie nel 1364, pensi, vero? Ah, mamma mia, un anno fa. Sì. Murano è attraversata da un grande canale, affiancata da palazzi, ville, giardini e chiese. È attraversata dal gran ponte Vivarini che divide l'isola in due. Il canale come si chiama? Il canale è grande, come il canale è grande. Ah, il canale grande, sì, come canale Venezia. Di Venezia, sì. E qua veniva a trascorrere in villeggiature i nobili, e c'erano 17 chiese che sono sparite, dei grandi palazzi dei secoli d'oro, la maggior parte distrutte dalla furia francese, praticamente napoleonica, è stata una ventata di follia, praticamente sparite palazzi, chiese, non è rimasto nemmeno un pezzo di mura. Una furia iconoclasta. Esatto, era la furia del popolo praticamente, la fine della Repubblica. E le chiese erano dunque la principale, la cattedrale Santa Maria Donato del XII secolo, esempio dello stile veneto-bizantino, straordinaria chiesa. La chiesa di San Pietro Martire del 1348 e costruisce opere d'arte di artisti come il Bellini, il Veronese, il Tintoretto, e sono provenienti da quelle isole, dalle isole che sono state scomparse attorno a nell'estuario nord praticamente, non c'era solo Murano, c'erano isole come l'isola di Amiana del V secolo, la Costanziaca con chiese, monasteri. E come mai sono scomparsi? Sant'Ilario, c'è stato anche un maremoto, penso sia sull'800 prima mila, prima del 1000, e poi l'erosione, ma quello che non si capisce, anche a Murano, delle cattedrali grandi non è rimasta una colonna, è stata descritta anche da Monsignor della Casa, degli ambienti straordinari, di dipinti, di sculture, sparito tutto. Vero? Ma sparito sempre per mezzo di questo maremoto? No, ruberie. Ah, ho capito. Perché tante... tante colonnate, tanto materiale hanno costruito la chiesa della salute, approfittavano di questa distruzione, vero? E cosa posso dirvi dopo? C'era nella cultura, perché c'erano gli orti di Murano, famosi, erano orti di artisti, qua venivano, per esempio Petrarca veniva a studiare il greco, e poi c'era il Petrarca, il Tasso, era un fiorire di cultura qua a Murano praticamente. Quindi è stata visitata da grandi poeti? Grandi poeti, veramente. Veramente? Sì. Quindi è un'isola importante. Monarchi, insomma, e poi soprattutto salto tutto conto la cronistoria e parto all'arte vetraria, vero? Allora aspetti un momentino, prima di parlare dell'arte vetraria, sì, lei resti in linea e ci ascoltiamo una canzone, così benissimo, l'ascolta anche lei, bene? Sì. Bene, adesso noi ci ascoltiamo un'altra canzone cantata da Julio Iglesias ed è intitolata Crazy. For feeling so lonely, I'm crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Thank you. crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Eccoci di nuovo in studio, ancora col nostro Moro Angelo. Sì, Angelo per gli amici. Ecco, Angelo per gli amici. Allora, adesso ci parla un po' del vetro, vero? Prima del vetro mi sono dimenticato, sì? Una chiesa che abito proprio qua vicino, la chiesa di Santa Maria degli Angeli. È un gioiello veramente, quei gioielli nascosti praticamente, del 1187, con opera della scuola del Tintoretto dei Salviati. E qua inizialmente era sepolto Sebastiano Vignier, il grande ammiraglio, sì, vincitore della battaglia di Lepanto. Esatto. Sì. Esatto. Pronto? Sì, siamo qua. Sì. E dunque ora ne parlo del vetro. Con decreto del 1291 la Repubblica concentrava a Murano le vetrerie, inizialmente a Venezia, causa il pericolo degli incendi avvenuti numerosi. Venezia praticamente le case erano in legno, perché sì, come Venezia insomma erano in legno. È suddivisa in tante isolette. Ma quindi questa industria del vetro è nata molto presto. È nata presto, prima a Venezia. E diverrà fonte di prosperità e ricchezza all'arte vetraia, l'imitazione delle gemme, delle perle, margheritine artificiali, conterie, vero? L'arte degli specchi e quella classica di vetri soffiati, colorati e della filigrana, soprattutto dei lampadari. Difatti i lampadari di Murano sono molto pregiati. Ha fatto la fortuna dell'isola, naturalmente. E quanta fatica c'è su questo. È la vostra fonte di ricchezza, in sostanza, il vetro. Come? È la vostra fonte di ricchezza il vetro. Sì, io non faccio vetraio. Però penso che insomma tanta gente lavorerà nel vetro. Perbacco. La famiglia mia moglie era di maestri vetrai di antica origine, proprio del 500. Ah. Itoso, vero? Sono famiglie che si sono tramandati da padre in figlio e via via, vero? Che purtroppo adesso sta calando enormemente. Adesso sì, adesso sta calando. Sì. Sentiranno la crisi anche loro ormai. Crisi e la fatica che costa farlo. Vero? È la conclusione di un ciclo storico, naturalmente. Intelligenza e anche forza fisica. È un mestiere molto molto molto difficile, con del calore impressionante. È faticoso? È mai pagato, io dico, è faticosissimo. Ma mi dica una cosa, come vivete voi lì, come si vive sull'isola? Cos'è la vostra, avete orti mi pare? Ecco, qua, ci sono tanti orti, vero? Prima repubblicamente c'erano gli orti diciamo culturali, ma qua ci sono degli orti proprio ambientali, orticelli praticamente, con tutti i prodotti che può fare l'orto, dalle insalate ai piselli eccetera, vero? Quindi voi mangiate roba genuina? Non si come cerca. Noi che mangiamo. Si cerca, sì. Quindi avete, insomma, avete il vetro, avete gli orti, poi cosa avete di particolare ancora da Murano? La tranquillità. La tranquillità, perché non passano. Finora, sì, toccando ferro c'è pace. C'è tanta pace, vero? Sì. Ma ci ha spiegato così molto brevemente quella che è la storia di Murano. Adesso allora, di Murano. Quante che chiese avete che varrebbe la pena? Tre. Praticamente sono tre chiese delle 16 che c'erano. Addirittura. dei numerosi anche conventi, perché anche gli Angeli, qua, la Chiesa degli Angeli è un grande convento delle agostiniane, è vero. Ah. È sparito, è rimasta solo la chiesa. Quindi il convento romanica. non c'è più il convento? No, è una chiesa che è aperta la domenica per la messa, è vero. Ah, e basta? E basta. Beh. Perché sono le opere d'arte, c'è un soffitto. Non trovo qua il nome dell'autore del suo Beh, cassettone, importa. Proprio tutto particolare, stupendo. Cioè, varrebbe la pena visitarla, ecco. Sì. Ecco qua, signor Angelo, ci ha esposto molto bene la storia di Murano, ci ha parlato del vetro, ci ha parlato degli orti, quindi ci ha fatto un'esposizione molto dettagliata e anche molto chiara di quella che è Murano. Sì, sì. Adesso noi la salutiamo, sì. La ringraziamo, sì. E a risentirci. Arrivederci. Buonasera. Bene, allora adesso abbiamo sentito anche il nostro Angelo e andiamo con un'altra canzone. O tu hai qualcosa di meglio da fare? No, andiamo con un'altra canzone e poi ci sarà qualcosa di, diciamo, sempre su Venezia, sulle tradizioni, sulle culture, diciamo. Benissimo. Sulla... Ci ascoltiamo Nella Vanoni che ci canta Più. Più te, uguale sarebbe che amo sé. Tu mi regali un po' d'allegria se giro per strade in tua compagnia. Io più te uguale sarebbe che ti amo, che volassimo un poco più in alto noi, fai finta di togliere. Io te rimane il più di così non posso. Un po' di paura addosso. Più di così, più di un sì. Più di te, più di me, più di noi, più che puoi di più. Più caldo del sole. Stasera ti porto via. Io vengo con te, io vengo perché più mi fai impazzire, mi fai morire più. E mi sta bene morire se morire si può una volta di più. Più di te, più di me, you Eccoci di nuovo in studio. Allora, sempre nel campo delle tradizioni, della cultura veneziana, c'è un bel libro del professor Gianfranco Siega che si intitola Par modo de dir, dal quale volevo estrapolare qualche detto, diciamo, che contiene frasi in dialetto veneziano, naturalmente con la mia capacità di avvicinarmi al dialetto veneziano. Sì, sì. Per esempio, ai tempi che Berta filava, Ai tempi antichi, quando la regina Berta, madre di Carlo Magno e donna di semplici costumi, passava le giornate in casa a filar la lana, domi mansit, lanam fecit. Di questa Berta, detta anche dal gran piede, perché aveva un piede più lungo dell'altro, aver do pie come do sfoggi, si racconta pure che, fatta prigioniera ed avendo voluto rimanere in incognito, si fosse guadagnata umilmente la vita filando e tessendo. In ambedue i casi possiamo dire che la sua vita filò serena. Ancora, in una variante poco conosciuta, Berta è identificata con Berta di Savoia, sposa dell'imperatore Enrico IV, quello di Canossa. Andare a Canossa, si dice. Costei, in un suo soggiorno a Padova, donò a una povera contadina, chiamata anche lei Berta, la filatrice, in contraccambio di uno stupendo ricamo, un poderetto nella zona. Figuriamoci le altre, tutte di corsa a portar ricami, tovaglie, pizzi e cuffiette. Ma Berta di Savoia, che aveva ben capito il Bergamo, capir o conoscer il Bergamo, rispondeva a tutti: non è più il tempo che Berta filava. Poi c'è un simpatico andar da San Paternian a Campo Manin. Cosa vuol dire Paternian? Significa non muoversi affatto. Ah, okay. San Paternian era il vecchio nome del campo che oggi è dedicato a Daniele Manin, capo del governo provvisorio nel 1848, e che lì aveva, come si diceva allora, casa da stazio. Lo stupendo, antichissimo campanile di San Paternian, elevato addirittura nel 999, fu atterrato assieme all'omonima chiesa, già sconsacrata nel 1810, per ottenere un più ampio spazio al campo nel 1871, e con esso furono distrutte le sale dell'Accademia Aldina fondate dal Manuzio. Il resto dello scempio fu compiuto per far posto all'attuale Cassa di Risparmio di Venezia. Quindi la Cassa di Risparmio di Venezia è così, e questa è la storia. Naturalmente non è che possiamo a posteriori avere granché da dire, però è interessante, è una cosa, una anche cosa questa dialettale che è poco conosciuta. Non capisco. Poi tante... qualcosa di speciale naturalmente di veneziano è il bacaro, o andar par bacari, per osterie a sbevazzare. Il termine bacaro indicava una volta il vino meridionale profumato e di buona gradazione alcolica, dall'arabo bacar, profumo. Il termine è passato poi a indicare anche il locale di vendita. Riporto qui le qualità dei vini più comuni che si vendevano sfusi negli anni 40, nell'immediato dopoguerra. Essi erano il Nostran, il Foresto, il Verona da Pasto e il Bianco. Ancor doverosamente trascrivo dalle deliberazioni del Maggior Consiglio, secolo XIV, un'anonima lode del buon bere, forse il primo brindisi conosciuto. Chi ben beve ben dorme. Chi ben dorme mal no pensa, chi mal no pensa mal no fa, chi mal no fa in paradiso va, ora ben bevè che il paradiso avere. Per finire, per quante belle cose. Certamente, però, ci sono. No, questa è molto, molto saggia, molto, molto valida. Non molto. Queste cose. Per finire, non posso tralasciare il famigerato vin da Pegni, di pessima qualità, oggi lo si chiama vin da Mureri, che gli osti davano contro garanzia un po' ovunque, ma soprattutto nelle coccine o stufe, taverne con stanzette, del Castelletto, dove si concentravano le cative femmine. Passo ora alle consuete canzoni da bacaro, che si possono ancora oggi udire, anche se sempre più raramente. Ne riporto i titoli nelle più conosciute. Pope Oe, che è il gondolier, che abbiamo sentito. Nina d'amor me consumo. Sì, anche quella. Nina sì. Mia so barcariolo. Si faccia silenzio per campi e canali. Buonasera, miei signori. Se diventar potessi un rosignolo. E citata per ultima, ma prima di tutte, la regina dei bacari. Sorgi, sorgi dal cielo stellato, con finale ad libitum, e vivan le glorie del nostro Leon. Ecco, questo è, diciamo, il professor Gianfranco Siega. Beh, belle, decisamente, come dire, sono di quei detti, sì, proprio tipicamente veneziani. Ma allora Antonio, le osterie lì si chiama Baccaro, è il tipico, è una tipica osteria, diciamo, veneziana, proprio una... Sì, come le nostre osterie qui, che adesso non esatto, ci sono più. Esatto, dove si servivano le ombre, diciamo, anche se ombra naturalmente è proprio tipicamente veneziana. Che ce ne siano ancora a Venezia di questi? Ma di Baccari sicuramente, poi ci saranno naturalmente trasformati e sono diventati anche, per certi versi, alcuni dei locali di, come dire, di pregio, di locali dove evidentemente occorre fare un mutuo a volte, magari scherzosamente, per poter entrare. È vero, perché... Certo, perché chiaramente la Venezia è una città straordinaria e quindi ha le proprie esigenze. Città eccezionale, decisamente. Tornando a Berto Filava, veramente usavano moltissimo il telaio una volta, adesso... Sono tempi trascorsi. Bene, allora ci ascoltiamo l'ultima canzone in programma, che è cantata da... da Battiato, Franco Battiato, ed è Te lo leggo negli occhi. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera. Te lo leggo. Bisogno di me, forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono, mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerà un amore. Soffrendo per me, e nei tuoi occhi che piangono, mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerà un amore. Tu lo leggi nei miei. Ed eccoci di nuovo in studio. Adesso vi volevo raccontare così la storia di una cassa, che è la Cassa Peota, che è naturalmente notoria anche a Treviso, ma che è di origine veneziana. Cosa vuol dire peota? Far Cassa Peota è una cassa comune. Ancora oggi in uso, la Cassa Peota funziona così. Un gruppo di amici, possibilmente fidati, decidono di fissare una quota settimanale di versamento al cassiere, eletto in fiducia, in un giorno stabilito di riunione, generalmente il sabato. I soldi così raccolti vengono impiegati in prestiti obbligatori da farsi ai soci stessi, i quali si impegnano a restituirli settimanalmente, con un interesse del 10%. Capitale ed interessi, accuratamente contabilizzati, vengono restituiti ai singoli soci alla fine della gestione annuale durante la cena di cassa. Da che cosa deriva tale usanza? Bene, si deve sapere che nei viaggi di commercio per mare i rematori volontari, e non ovviamente i galeotti forzati o gli schiavi a remo, avevano per consuetudine la possibilità di fare un piccolo commercio, quanto potevano portare sotto il banco di voga. I soldi necessari all'acquisto della merce venivano per sicurezza consegnati al capitano nocchiero, al pilota, il quale provvedeva a restituirli all'occasione o eventualmente a prestarli, con il relativo interesse, ai membri dell'equipaggio che ne restassero sprovvisti e a spartire, alla fine del viaggio, il capitale e gli eventuali utili, interessi, raccolti. Da ciò cassa pelota, cassa del pilota. Una diversa interpretazione: le peote erano barche fluviali a 6 o 8 remi che nel XVII secolo accompagnavano riccamente addobbate i cortei in Canal Grande. Può essere che queste associazioni di vogatori terrafermieri mettessero insieme le quote settimanali degli iscritti in funzione delle spese da sostenersi per il corteo stesso, con le stesse modalità, prestiti e condivisione degli interessi dei rematori di galere, e da ciò cassa peota. Un diverso etimo può essere considerato il verbo pelar, spennare, riferentesi all'interesse del prestito obbligatorio, ma non lo ritengo accettabile. Ecco qui il professor Siega. Vedi che ogni parola ha la sua derivazione. Certamente, è una storia straordinaria quella di Venezia e di tutto il Beh, ma da Venezia Veneto. Ce ne sarebbero tante cose da dire per Certamente. Quello. Va bene, ma la prossima puntata, quando parleremo di Venezia, parleremo di altre tradizioni, di altre cose. Certamente. Benissimo, allora Antonio, vuoi salutare tu? Sì, diciamo che ringraziamo naturalmente nuovamente le amiche e gli amici all'ascolto per la loro pazienza e speriamo di aver dato loro quel pizzico di tradizione, di ricordo, eccetera, che serve a guardare il futuro, perché per guardare il futuro è importante rivolgere uno sguardo anche al passato. Direi che è molto importante, perché senza passato non c'è futuro. Bene, da parte mia, come solito, mando a tutti un abbraccio affettuoso, un saluto al nostro regista Eddie. Quindi, allora, con Antonio e con Eddie, auguro a tutti una buona notte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.